C'erano un fosso e un ponte levatoio, che quando venivano lasciati soli al buio, c'era un cavaliere nascosto a tre pomelle, che sapeva e ne preparavano sempre delle belle alle riunioni quasi mai di però e di proposta solo del ponte levatoio, ma alle prime avvisaglie veniva legato quel cavaliere della tavola. C'era un gatto tutto nero che preferiva sempre stare sul vero, ma quando